nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben trovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che conduce come sempre una battaglia contro il multitasking, la grande fregatura che ci siamo inventate da soli per complicarci la vita. Ma la vita ce la complichiamo in tanti modi e certe volte ce la complicano. Sentite che cosa è successo, per esempio, a Nicola Thorpe, 27enne inglese, addetta alla reception di una società di corporate finance a Londra. Il primo giorno di lavoro Nicola si è presentata con le scarpe basse e subito, immediatamente, l'azienda le ha fatto notare che quel dress code per le donne di azienda non era contemplato. In azienda le neoassunte, come pure le assunte da tempo, devono camminare sui trampoli, tacchi alti, se no a casa. Nicola, che evidentemente non accetta questo genere di diktat, ha fatto notare che la richiesta dell'azienda era discriminatoria e i tacchi lei non li avrebbe messi. Risultato? L'hanno mandata a casa, senza stipendio. Ed è proprio a questo tema, cioè al tema di l'immagine e la carriera, quanto conta doversi adeguare a un certo stile imposto, un identikit femminile che è quello imposto negli ultimi 20 anni, che questa domenica porremo grande attenzione, anche perché voi lo sapete, nelle ultime sei settimane io sono stata a Chicago a insegnare all'università, alla stessa università, all'Institute of Politics, e lì, proprio lì, mi è capitato spesso di discutere di questo tema, che è un tema caldissimo. Quanto conta nell'ambiente di lavoro non solo presentarsi in un certo modo, e dunque per esempio mettere i tacchi alti che Nicola Thorpe non ha voluto mettere a Londra, ma anche quanto conta semplicemente essere belli, essere, diciamo, naturalmente avvantaggiati rispetto a chi invece nasce meno bella. Mi è capitato di parlarne con uno studioso che proprio a Chicago ha riflettuto su questo argomento, ed è proprio lui l'agente provocatore di questa settimana. Benvenuto a Nessuna è Perfetta, buona domenica, professor Dario Maestripieri, scienziato con formazione in biologia evoluzionistica e in neurobiologia, professore di biologia e psicologia all'Università di Chicago. Buona domenica. Buona domenica. Ecco, proprio a Chicago col professor Maestripieri mi è capitato di parlare di uno studio al quale il professore sta ancora lavorando con due sue allieve, ed è uno studio, lo sintetizzo un po' semplicisticamente il titolo: i trattamenti di favore riservati alle persone fisicamente attraenti, che approfondisce il legame tra l'avere una presenza appealing, attraente per l'appunto, e la possibilità di avere migliori opportunità di lavoro o persino aumenti di stipendio. Professore, citavo prima il caso di Nicola Thorpe, che giorni fa è stata licenziata a Londra al suo primo giorno di lavoro perché si è presentata con i tacchi bassi e si è rifiutata di calzare scarpe col tacco. Nessuno in quell'ufficio ha neppure avuto il tempo di valutare le qualità professionali di Nicole, assunta per fare la receptionist. Quel che contava era che lei aderisse all'immagine di una donna sexy che deve essere la receptionist in una società finanziaria. Dunque, per venire al suo studio e capirne di più, nella dimensione professionale di oggi l'aspetto fisico conta almeno quanto la competenza, talvolta perfino di più? Beh, dipende dai settori professionali. Ovviamente in alcuni settori, per esempio nell'ambito di relazioni pubbliche, oppure situazioni in cui persone debbono interagire personalmente con clienti importanti e facoltosi, presentarsi bene è importante. Ovviamente questo caso di una persona licenziata il primo giorno di lavoro per non portare tacchi alti mi sembra assolutamente eccessivo. Comunque è un fenomeno che non è nuovo, per esempio gli economisti l'hanno saputo da molto tempo, hanno fatto molte ricerche su questo fenomeno, per il quale sia uomini che donne che sono reputati essere molto più fisicamente attraenti hanno dei vantaggi economici sul lavoro, per cui hanno maggiori probabilità di essere assunti, hanno una carriera più brillante, più rapida e guadagnano più soldi. Nella valutazione che sta facendo lei con le sue allieve c'è anche un il racconto, in questo studio c'è anche il racconto di quel che succede a una passeggera bella e a chi bello non è. Cioè i belli viaggiano in business e in prima classe, perché? Ma questa è un'osservazione informale che ho fatto io viaggiando, non è che ci sia una ricerca con dei dati che dimostri che questo sia vero, però mi sembra di aver notato che le persone che siedono in business class e in prima classe sono più fisicamente attraenti di quelle che magari siedono in economia. Insomma, in generale si sa che per esempio negli hotel più costosi, nei resort più esclusivi ci sono persone più attraenti, quindi ci sembra essere un'associazione fra bellezza fisica e disponibilità finanziaria, quindi le persone più ricche sembrano essere anche più attraenti. Ma questo però porterebbe a una distonia nel mondo, perché per esempio l'intelligenza non sempre si associa a un aspetto estetico gradevole. Era un pregiudizio secoli fa che i brutti fossero più intelligenti, ma insomma, come nelle favole di Perrault succedeva questo, però di sicuro questa ossessione per la bellezza è qualcosa che nelle connotazioni, come dire, che sta avendo ora, è qualcosa di veramente ossessivo ed esagerato, no? Sì, la domanda interessante è perché noi siamo così predisposti a trattare meglio le persone attraenti, sia dal punto di vista del lavoro, sia anche nelle relazioni personali. Noi, per esempio, se ci ferma una persona per strada per chiedere un'informazione, magari che ora fa, probabilmente siamo più gentili e più generosi se la persona è fisicamente attraente che se non lo è. La domanda interessante è perché? Perché trattiamo le persone fisicamente attraenti meglio, al punto tale magari di perdere dei soldi, di investire dei soldi? Ci sono varie teorie al momento, una delle quali è che noi attribuiamo dei tratti psicologici differenti, una personalità differente. In alcuni casi, per esempio, come menzionato lei, un'intelligenza magari superiore. In realtà non è vero, però alcune persone forse credono che le persone più attraenti sono più simpatiche, più generose, più competenti. In realtà non ci sono dati che supportano queste idee. Ecco, ma proprio perché lei si è appassionato a questo studio, è semplicemente un pregiudizio positivo quello che spinge a trattare meglio e quindi perfino economicamente meglio sul posto di lavoro una persona bella, o è invece qualcosa che parte da un impulso cerebrale legato, che ne so, alla riproduzione, anche laddove ovviamente non c'è poi nessuna possibilità di accoppiarsi col soggetto al quale chiediamo un'informazione per strada? Però in questo articolo che abbiamo scritto prendiamo in considerazione varie ipotesi, varie teorie che sono state suggerite da vari scienziati, economisti, psicologi, anche biologi evoluzionistici, e tra quale al momento non c'è un accordo, quindi non si sa bene quale sia la spiegazione ultima. Come ha detto lei, è probabile che ci siano dei meccanismi psicologici inconsci, tali che quando noi vediamo una persona fisicamente attraente, soprattutto se è del sesso opposto, e quindi ne siamo anche attratti, insomma, in maniera romantica o addirittura sessuale, ma ci sono dei meccanismi inconsci che si mettono in moto, quindi anche se senza esserne consci, noi automaticamente trattiamo questa persona in maniera migliore. Perché questo succede? Ma perché, per esempio, quando si parla di riproduzione, persone che sono più fisicamente attraenti potrebbero potrebbero essere in salute migliore, potrebbero avere una costituzione, diciamo, più forte. Questa è una cosa di cui in realtà ci sono dei dati, anche in natura. Anche gli animali, quando si accoppiano, hanno preferenza ad accoppiarsi con animali che sono più simmetrici, che sono più belli, che non hanno difetti anatomici, che non sono disfigurati. Quindi ci sono anche i fiori, che magari le api che vanno a impollinare i fiori, preferiscono fiori che sono belli, che sono simmetrici. Perché? Perché appunto sembra che siano di qualità migliore. Ecco, quindi è probabile che la mente umana ha un meccanismo inconscio di riconoscere e trattare in preferenza persone attraenti perché c'è questa idea che possano essere di qualità migliore. Ecco, mi verrebbe da dire, uno, che l'aumento di stipendio che derivi dal fatto di avere, che ne so, una bella dentatura o degli occhi splendenti e ben truccati non dovrebbe poi fare il bene dell'azienda, perché se si dà un aumento di stipendio a un incompetente, oppure come è successo alla povera Nicola Thorpe, che magari sarebbe stata una receptionist magnifica ma solo perché non ha voluto mettere i tacchi è stata licenziata. Ecco, il criterio, diciamo, di utilità all'azienda e di meritocrazia va a farsi benedire. Certo, ovviamente ci sono altri criteri che vengono considerati, la competenza, la produttività, la professionalità, però quando tutti questi altri criteri vengono, diciamo, considerati alla pari, sembra esserci una tendenza per trattare, per avvantaggiare, ecco, persone attraenti. Per darle un esempio, ecco, ci sono economisti che hanno calcolato che il vantaggio economico delle persone fisicamente attraenti equivale a un 15% in più di stipendio in media. Quindi non è che ovviamente se parliamo di raddoppiare o triplicare lo stipendio, però è un vantaggio piccolo, però comunque significativo, insomma, 15% non è poco. Bene, ne continueremo a parlare per tutta la puntata perché l'argomento è inquietantemente affascinante. Intanto, professor Maestrepieri, la ringraziamo per essere stato con noi da Chicago a Nessuna è Perfetta e buona domenica. Buona domenica, grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E questo è il momento della nostra Sunday Girl. Buona domenica a Cristina Parodi, giornalista, conduttrice televisiva, ogni giorno alla guida della vita in diretta, donna molto bella, oltre che brava e di successo. Ciao Maria. Ciao Cristina. Se ti fosse capitato di presentarti mai in redazione all'inizio della tua carriera con dei tacchi 12, forse ti avrebbero guardato male, mentre invece oggi succede il contrario, o almeno è successo il contrario a Nicola Thorpe, receptionist di una società finanziaria a Londra, che è stata licenziata al primo giorno di lavoro perché si è presentata con le scarpe basse e non ha voluto calzare scarpe con i tacchi. Che te ne sembra? Beh, questo mi sembra veramente una discriminazione abbastanza fastidiosa, ecco, perché si impone alla donna un'immagine assolutamente maschile che non corrisponde invece alle capacità, alla professionalità che deve avere ogni donna sul lavoro. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna avere un vestito adatto ai ruoli e al lavoro che si fa, cioè su questo sono d'accordo. Sono d'accordo di non andare al lavoro con le minigonne scosciate, insomma, a meno che non si faccia la ragazza immagine in discoteca. Però, insomma, non far lavorare una donna perché non si mette i tacchi alti, perché evidentemente gli uomini ritengono che soltanto il tacco alto avrebbe comunque dato maggiore credito alla sua professionalità, è assolutamente assolutamente maschilista e discriminatorio nei confronti delle donne. Sì, infatti io dicevo, se noi in redazione, quando abbiamo cominciato, appunto, dove una donna, una giornalista doveva essere soprattutto competente, ci fossimo presentati in minigonna e col tacco 12, mi ricordo al secolo XIX non mi avrebbero mai assunto. È cambiato molto invece nella corrispondenza tra come si deve essere una giovane donna sul luogo di lavoro e come probabilmente un capo maschio, perché questa ossessione del tacco 12 è soprattutto, come dicevi tu, un'ossessione maschile, pretende che le proprie collaboratrici si adeguino a questo immaginario. Ma la cosa che mi premeva anche vedere con te, Cristina, è che non solo c'è la richiesta di adeguarsi a questo stereotipo della donna sexy a tutte le ore, però ci sono studi e uno recente condotto dal professor Maestri Pieri a Chicago che tendono a dimostrare una corrispondenza tra bellezza e carriera, aumenti di stipendio, eccetera. Te l'avranno chiesto molte volte, ma quanto ha contato la bellezza nella tua carriera e anche nel tuo conto in banca? Guarda, nel mio conto in banca credo zero. Nella mia carriera, sai, è inutile nasconderlo, avere una presenza gradevole è un aiuto, perché comunque vieni magari accolta in un altro modo. Ovviamente facendo un lavoro di immagine come quello mio televisivo, anche l'immagine conta, però insomma grazie al cielo fare il giornalista insomma non serve essere una top model, ecco, serve avere sicuramente un'immagine gradevole, anche un look consono al lavoro che fai. Io credo che però questa sia insomma abbastanza una verità, perché comunque se sei bella hai magari più facilità anche solo ad arrivare a certe persone, no? E quindi ad avere più opportunità, più occasioni per riuscire a fare la tua strada. Detto questo, poi ci sono delle donne meno belle, tostissime, che insomma, fanno gran carriera, e questo grazie al cielo. Però forse, considerando le statistiche sui numeri generali, ci sta anche questo dato che tu hai dato. Resta il fatto che per me la bellezza è sempre un vantaggio che ci dà madre natura, un qualcosa che bisogna coltivare e migliorare, ma che assolutamente non sarà mai sufficiente per fare carriera, a meno che tu appunto non faccia la fotomodella o la ragazza immagine. Ecco, se il lavoro che fai è un lavoro per il quale comunque serve molto insomma la testa, la competenza, la professionalità, quello che devi coltivare bisogna dimostrarla. Senti, la nostra trasmissione si chiama Nessuno è perfetta, Cristina, e a te invece è stato spesso affibbiata l'immagine, a proposito di immagine, di essere la donna perfetta, la perfettina Cristina. Imperfezioni niente? Oh, moltissime imperfezioni, ma oramai mi sono affezionata talmente a quel nomignolo che sai che avevo anche scritto un libro, Sei perfetta e non lo sai, perché io poi credo che alla fine tutte le donne possono essere perfette, insomma, sapendo quali sono i loro punti di forza e i loro punti di debolezza. Io imperfezioni ne ho un sacco, ma questa definizione alla fine non mi dispiace, perché secondo me alla fine descrive una sorta di come dire, atteggiamento, allure di sobrietà, di eleganza, che mi sta benissimo. Cioè preferisco essere una perfettina che non una appariscente o, come dire, troppo diva o esibizionista. Nell'essere perfetti si cade spessissimo nella trappola di voler fare molte cose contemporaneamente, tutte molto bene. La nostra trasmissione ha, come dire, il chiodo fisso di battersi contro il multitasking, che è una tentazione alla quale io per prima, ma tutti quanti, soggiaciamo. Tu come te la cavi? No, io sono assolutamente multitasking da una vita, perché insomma, avendo iniziato a lavorare presto, avere famiglia, tre figli, un lavoro sempre in movimento, perché come sai vivo a Bergamo e lavoro a Roma e però il venerdì a Milano. Sì. faccio mille cose, ma non le faccio mai in maniera perfetta, e quindi sono proprio felice della mia imperfezione, sono imperfetta ma felice, felice di riuscire a fare tutto, perché io credo che le donne oggi abbiano l'opportunità e la possibilità di fare tante cose, di non rinunciare alla famiglia se hanno voglia di lavorare, di fare carriera, magari di riuscire anche a divertirsi con le amiche, di non rinunciare. Però anche se c'è un po' di imperfezione, va bene, io non mi ritengo una mamma perfetta perché insomma, ho sempre lavorato, ho sempre preso i miei spazi, non mi ritengo una giornalista perfetta, però sono ancora oggi a condurre un programma di successo e felice del mio lavoro, e quindi sono imperfetta ma felice. Imperfetta ma felice, e poi comunque come dire, riconoscere le proprie imperfezioni e aiuta a vivere meglio, più rilassate e senza farsi una caterva di problemi come magari invece qualcuno vorrebbe che ci facessimo. Cosa serve tanto il buon senso, Maria, al di là della perfezione, perché la perfezione poi è abbastanza irraggiungibile, però insomma se uno con il buon senso riesce appunto a conciliare quelli che sono i doveri, l'educazione, gli obblighi, gli impegni, ma anche con insomma un po' di leggerezza, di allegria, di divertimento e anche di errori ci sta. Gli errori ci stanno, sì, senza drammi. E poi è domenica e noi proprio la domenica cerchiamo, con Nessuna è Perfetta, di alleggerire un po' la vita, cominciando col dire dobbiamo prenderci così come siamo, dolcemente imperfette, per citare in qualche modo la canzone di Fiorella Mannoia. Grazie Cristina, sì. Buona domenica e buon ritorno a te, Bergamo. Grazie a te, Maria, e ai ascoltatori. Ciao. Grazie, ciao. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E questo, lo sapete, è il momento della domanda della settimana, del problema che ci viene posto da un'ascoltatrice o da un ascoltatore delle nostre trasmissioni. Sapete che potete scriverci, parlarne, la nostra mail nessunaeperfetta@radio24.it e commentare quello che diciamo qui su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta. Seguiteci anche sempre sulla nostra pagina Facebook. Ma veniamo alla lettera di questa settimana, che è in qualche modo collegato al filo conduttore di tutta la nostra puntata, e adesso capirete perché. Lavoro da diversi anni in una società di comunicazione ed organizzazione di eventi. Non sono quella che si definisce una grande bellezza, ma tutto sommato non mi ritengo da buttare via. La ragione per cui vi scrivo è che però troppo spesso mi sento dire dalla mia responsabile: «Oh, finalmente ci siamo vestite come si deve!» Oppure: «Dormito poco stanotte? Lo sai che esistono i correttori?» Non è assurdo? Io vorrei ricevere commenti nel bene e nel male per il lavoro che svolgo, per l'impegno che dimostro, per i risultati che porto, piuttosto che per il look o per il mio aspetto fisico. Davvero valgono di più di quanto dimostro sul campo? Giulia. Stando alle ricerche di cui abbiamo parlato finora, cara Giulia, sì, devi tenere conto del fatto che anche il tuo aspetto, quello che comunichi con o senza correttore e make-up, ha un peso. Però non voglio, come dire, mettere le mani avanti, ci sono due esperti con i quali questa domenica vedremo di capire di più rispetto al problema posto da Giulia. E ve li presento subito: Simona Salvini, titolare di My Studio 75, agenzia di comunicazione specializzata nel lusso a Milano, di recente molto concentrata sul settore bellezza. Buona domenica, Simona. Buona domenica a tutti. E Alessio Streccioni, responsabile della selezione, formazione e sviluppo di Decathlon Italia. Buona domenica, Alessio. Buona domenica a voi. Ecco, io allora vorrei partire subito con Alessio Streccioni, e la lettera pone un problema che è reale. Devo essere valutata per i risultati che porto. Ma lavoro in un'agenzia di comunicazione, quanto conta il mio aspetto e quanto fa bene la mia capa a ricordarmi che devo tenerne conto? Alessio Streccioni, nel suo ruolo di responsabile della selezione, della formazione e dello sviluppo, quanto conta? E sbaglia Giulia a porsi questo problema in questo modo? Ma allora conta nella sua dimensione. Io vorrei riprendere un po' la lettera, perché se vediamo gli appunti che appunto la sua capa le fa, sono tutti appunti su non come è, ma su come si mostra, e quindi sul look. Non parla, stando a quello che scrive, della sua bellezza in senso assoluto, ma parla di vestiti, di correttore, di come appunto trasmetta agli altri il suo essere, che è un tema di comunicazione con gli altri, a tutti i livelli, con i clienti, con i capi, con i colleghi. L'immagine come la parola ha un senso nella comunicazione, l'immagine è intesa come quello che voglio far vedere, non necessariamente la bellezza in senso assoluto. Io dico sempre che noi siamo responsabili non della faccia che abbiamo, ma della faccia che facciamo, e quando dico dell'immagine che diamo, per me c'è l'atteggiamento, l'espressione, il viso, il sorriso, lo sguardo, l'energia, può mettere tutto quello che vogliamo. È importante nella relazione, credo che sia importante, come sono importanti le parole che utilizziamo quando vogliamo comunicare con qualcuno. È importante nel mio lavoro, credo che sia importante a maggior ragione per una persona che lavora all'interno di una società di comunicazione. Ovviamente non può essere ridotta la valutazione del mio business, della mia attività, esclusivamente a questo. Certo, però è un elemento che contribuisce a tutto l'aspetto. Simona Salvini, lo sforzo al mattino di mettersi un fondotinta, di avere una pelle luminosa, son tutte cose che pesano. Come ha avuto modo di dire Barack Obama tempo fa, io devo tener conto del fatto che Hillary Clinton, quando si presenta davanti alle telecamere a un comizio, ha già mezz'ora di parrucchiere alle spalle. Io arrivo più fresco di lei, e tutto sommato questa è una fatica che viene chiesta di più alle donne. Ma vale la pena? Assolutamente vale la pena. Non la definirei neanche una fatica, credo che dovrebbe anzi essere un piacere occuparsi di se stesse e cercare di offrire il nostro lato migliore. Sono assolutamente d'accordo con quello Alessio che diceva Streccioni. Prima Alessio Streccioni, e aggiungo anche che ci sono ruoli professionali dove è fondamentale avere un determinato aspetto congruo al ruolo che si fa. Penso che nessuno di noi andrebbe mai da un dietologo grasso o farebbe fare servizio. Io ci sono andata. va bene, allora. Infatti non ero. Sei l'eccezione. Ecco. Oppure, non era un oppure prendere dei mingherlini come servizio d'ordine. Va da sé che una persona che si occupa di comunicazione, a maggior ragione nel campo del lusso, le piaccia o no, comunica anche con un linguaggio non verbale. Poi è chiaro che tutto va contestualizzato, e come dicevano i latini, es modus in reus, però voglio dire. Non ci si può presentare sciatti e malconci quando si lavora in un determinato settore. E io ho anche una curiosità, Streccioni. Nella fase di selezione, gli aspiranti candidati che appaiono più attraenti nelle foto che sono inserite nei CV hanno più chance di essere poi convocati per un colloquio? Sì o no? No, ma assolutamente no. Questo assolutamente è, no, lei dice. Questo è, cerchiamo di combattere questo, che è un errore su cui uno può cadere facilmente, perché ovviamente, come dicevo prima, è un elemento di valutazione. Se mettiamo 10 aspetti da valutare, potrebbe essere uno, ma no, in fase di selezione l'esercizio che bisogna fare è cercare di scandagliare, per cercare di capire la persona che sia davanti, come è fatta, ma contemporaneamente mettere in discussione quella tesi, a maggior ragione se quell'impressione me la sono fatta da una foto. Quindi assolutamente è l'obiettivo, siamo umani e sbagliamo, e quindi sappiamo bene qual è l'errore da evitare, cerchiamo di lavorarci. È ovvio che anche qui parliamo di una parte della valutazione, ma parliamo anche di comunicazione. Un candidato vuole comunicare all'azienda qualcosa di sé. se l'azienda è sportiva, probabilmente questo candidato ama lo sport, e se mette una foto sportiva comunicherà qualcosa di valore rispetto a una foto statica. Ma io non parlerei di bellezza, ma parlerei proprio di codice di comunicazione, dove l'immagine ha una sua parte, e lì sì che diventa non determinante, ma può giocarsi un valore favorevole o meno. Simona Salvini, nel suo campo, l'abbiamo detto, lo diceva pure lei prima, il fattore estetico pesa. Quanto? Quando seleziona una persona, la sceglie anche sulla base di come si presenta esteticamente? Allora, anche qui sono d'accordo con Alessio Strecciati. Più che pesa, influisce, ma direi la bellezza nel suo insieme, ossia uno è bello, brutto, insomma... è responsabile fino a un certo punto, però uno ha il dovere di presentarsi al meglio, questo sì, e questa è una cosa di cui io effettivamente tengo conto. Qual è la cosa che in una giovane donna che si presenta a un colloquio da lei fisicamente la colpisce? Male o bene? Cioè il pregiudizio, diciamo, male, negativo o positivo? Male assolutamente la trascuratezza. Cioè va bene, ma sui capelli, sulla mancanza di un rossetto? No, qual è il... no, ognuno ha il suo look, però ognuno ha il dovere di essere pulito, in ordine. Ognuno ha il dovere di presentarsi con dei vestiti adeguati, non macchiati, non stracciati. Insomma, diciamo... il minimo, la pulizia è la cosa. Il decoro, ecco, che è una parola sempre più borderline, ecco, mi sembra di. Sì, ma è una parola forse da recuperare. Ecco, con il garbo aggiungo. Senta Streccioni, nel concludere i nostri consigli a Giulio e Giulia, voglio anche però tener conto di un altro aspetto. Secondo due studiosi israeliani che hanno pubblicato uno studio così titolato Are good looking people more employable? Cioè, le persone di bell'aspetto trovano più facilmente lavoro. Questi studiosi israeliani sostengono che una potenziale candidata carina non dovrebbe allegare, sentite, la foto al curriculum. Perché? Guardate la tortuosa, diciamo, a dove tortuosamente si arriva. Se una carina pubblica la foto, mette la foto nel proprio curriculum, siccome le selezionatrici, dicono gli studiosi israeliani, sono soprattutto donne, quindi invidiose di possibili rivali, beh, allora queste candidate avrebbero meno successo, meno possibilità di essere assunte. Rovescio la domanda, lei, un uomo molto bello, lo assume o no? Sia onesto. Assolutamente, cioè non mi soffermo su quello, è veramente quello che dicevamo prima, influisce l'impatto, è una parte della valutazione, ma poi non seleziono per quello, o quantomeno spero di non farlo perché sarebbe un errore grandissimo. E poi un vecchio adagio, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, proprio sta a sancire il fatto che è veramente tutto relativo, anche la bellezza. Quindi il consiglio a Giulia è di giocarsi le proprie carte, se vuole essere nella vita sciatta lo faccia, si presenti così e troverà la sua strada, non sarà in questa azienda, sarà in un'altra. Credo che debba cambiare. Simona Salvini non è d'accordo col consiglio di Streccioni. No, per carità, non mi permetterei, mi chiedo quale potrebbe essere la strada se uno si presenta così, però effettivamente il mondo è vario. Ma è vero che le selezionatrici sono invidiose e quindi se c'è una foto di una carina la cestinano, come dico questi due studiosi israeliani? Questo non saprei, io so che il mondo si divide in persone invidiose più o non. Meno illuminate. Una persona invidiosa è una persona che ha un parametro molto limitato e non potrebbe fare la selezionatrice per giudicare, per valutare, quindi non lo so, credo che sia veramente proprio così. Legato alla casistica. Grazie a Simona Salvini, grazie ad Alessio Streccioni, buona domenica a entrambi. Noi ci fermiamo qui e arriviamo tra pochissimo col nostro coach. Nessuna è perfetta. Eccoci per l'ultimo blocco di Nessuno è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete sentito i nostri esperti, Simona Salvini, Alessio Streccioni, e i consigli che hanno dato a Giulia, un po' indispettita per i frequenti richiami della sua capa, non contenta di non vederla proprio in tiro ogni giorno. Ma come dicevo anche all'inizio, l'argomento non è per nulla di superficie, un argomento di sostanza nel mondo del lavoro, e possiamo dirlo a ragione dopo alcuni decenni in cui si è trasmesso il messaggio che l'abito fa il monaco e anche il make-up. Di questo vorrei parlare e capire col coach di questa settimana. Buona domenica, Roberto Dincau, che è il fondatore di Lange Partners, coach e cacciatore. Assolutamente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la lettera di Giulia pone un tema essenziale. Devo essere valutata per i risultati che porto alla mia azienda, che è un'azienda di eventi e comunicazione, ma se anche io non sono sempre perfettamente truccata al mattino, chi se ne frega? Sbaglia o ha ragione? Allora, io direi che entrambe, sia lei che il suo capo, in fondo hanno torto, in realtà. Nel senso che se fossi il suo capo, le parlerei più con questi rimbrotti così spot, che non mi piace tanto, ma le farei un discorso, direi: guarda che questa agenzia organizza eventi, eccetera, quindi parte delle competenze che noi richiediamo è anche, non certo la bellezza, perché questo uno non se la può dare, però quello che io come cacciatore di teste e come coach definisco lo standing complessivo. Quindi la vedrei in un'ottica proprio di una delle tante competenze che servono per esplicare quel ruolo. Mi spiego. Io non penso che Giulia debba essere in tiro tutti i giorni, che però debba curare sicuramente il suo aspetto, e ripeto, quello che io definisco standing, secondo me è parte integrante, tutto sommato, anche del suo job. Quindi io direi che queste due persone dovrebbero parlarsi, chiarirsi un po' su qual è il perimetro su cui si lavora e agire. Tra l'altro di persone che hanno agenzie di eventi ne conosco tante, non necessariamente tutte sono belle, però sicuramente la gradevolezza complessiva e il modo di porsi è uno dei fattori. Quindi oggi poi io dico sempre che essere brutti non è quasi più neanche una possibilità. No, ci sono miliardi di modi per esatto. Diventare belli. Guarda, non faccio nomi. Dal vestirsi al truccarsi in modo corretto, esatto, senza, non è così complicato. Esattamente, senza cadere fino nella chirurgia plastica, insomma, non serve. Però, come dire, ecco, io dico sempre, ne parlavo anche con la nostra collega psicologa l'altro, proprio ieri quando tu mi hai invitato, e giustamente dicevamo: sì, certo, porsi in modo gradevole è come porre in fondo un biglietto da visita sgualcito e stampato in velocità alle macchinette, piuttosto che invece un biglietto da visita ben curato, ben stampato, con i colori giusti, con una bella carta. È chiaro che fa tutto un altro effetto. Roberto Dincau, all'inizio della puntata abbiamo citato sia una ricerca dell'Università di Austin, una ricerca di qualche anno fa, Beauty Pays, questa ricerca le persone meno belle guadagnerebbero il 12% in meno rispetto a quelle belle, e lo studioso Dario Mastripieri con il suo studio si inserisce in questo filone. Quanto c'è di vero? Allora, io direi che bisognerebbe studiare l'effetto, non bellezza pura, ma l'effetto sicurezza e autostima, perché quello che a mio parere si ottiene con una bellezza, con una cura di sé o con un buono standing, perché io poi alla fine lo metto tutto sommato allo stesso livello, è il fatto che si ha maggiore sicurezza di sé, si ha maggiore autostima, e quindi questa cosa viene assolutamente percepita nel mondo del lavoro e porta poi a fare che cosa? A darci posizioni più responsabilità, a darci dei compiti più importanti. Cioè, non è tanto, a mio parere, l'effetto bellezza pura, quanto l'impatto che questa cosa ha sulla nostra autopercezione. Questo gli altri lo percepiscono molto, nel senso che una persona sicura di sé, una persona assertiva, una persona che si pone in maniera sciolta, è sicuramente una persona che viene valutata dal punto di vista proprio delle competenze meglio rispetto a una persona che è più timida, che si tiene più indietro. E quindi io direi che l'effetto netto potrebbe nascere da questo. Questa è la mia idea, perlomeno. Nel porsi con la sua capa, Giulia deve fare prima una autoanalisi e quindi stabilire che non è, come dire, un principio da difendere quello del vado valutata solo per i miei risultati, cioè deve farne una battaglia, un conflitto con la sua capa o semplicemente, come dire, riflettere sulle cose che abbiamo detto anche nel corso di tutta questa puntata senza voler dare suggerimenti obbligati a nessuno. Ah, ne faresti un conflitto aziendale, no? No, io penso che i conflitti aziendali non servono a nessuno. Io penso che quello che servono sia le condivisioni, le riflessioni. Quindi ecco, sicuramente il suo capo che la riprende in questo modo dicendo ah, oggi ti sei vestita male piuttosto che hai le occhiaie, ecco, questo magari è poco carino. Tra l'altro in America sarebbe anche passibile, oltretutto, di, noi sappiamo benissimo ci sono state delle cause, no, per discriminazione sul look in aziende anche di grande prestigio. Quindi questo è sbagliato, in Italia non arriviamo a tanto, però insomma. Però ecco, una condivisione, cioè fare capire a questa dipendente, a questa collaboratrice che la gradevolezza complessiva e il modo di porsi è, ripeto, un aspetto che lei ritiene integrante di quel lavoro lì, io penso che potrebbe essere un'area di crescita anche per Giulia. Quindi Il messaggio da dare dunque a Giulia e a quelle che come lei stanno riflettendo su questa cosa è: non fatene una battaglia, non vale la pena, costa meno forse pettinarsi un pochino di più al mattino, arrivare 5 minuti prima davanti allo specchio piuttosto che ingaggiare una battaglia. Ci sono questioni più di sostanza su cui fare un conflitto. Più di sostanza, e probabilmente Giulia è anche vittima di un cliché, così come esiste il cliché della bella e inetta, della super, della, no, della buonona inetta, esiste un po' anche un cliché del ah sì, io punto solo su quello che dico e che faccio, sui meriti, e del look me ne frego completamente. Quindi anche questo secondo me è un anticliché che io trovo si possa superare. I cliché sono fatti per essere superati, per essere messi da parte. Ecco, io Giulia trovo che potrebbe essere vittima di una sua, quella che noi definiamo, noi coach, frozen assumption, cioè un pregiudizio che lei ha del fatto che se non si presenta in maniera così rigorosa, quasi sciatta, magari non è una brava, ecco, perché questo è, io spesso che c'è spesso questa cosa qua esiste, così come noi maschi abbiamo l'idea, adesso ti farò ridere, che il palestrato fisicato sia un inetto, e non è assolutamente vero. Così esiste anche nelle donne, c'è a volte l'idea che così quella super curata, boccolosa, sia un po' lì come una bella statuina inutile, non è assolutamente... Sono i pregiudizi preventivi, e rispetto, esatto, a questi che si fa, Roberto D'Incau, rispetto ai pregiudizi che tutti noi inconsapevolmente alimentiamo? Abbiamo. Beh, io trovo che questa situazione, questa lettera di questa lettrice sia utilissima, perché è un'occasione di riflessione. Questa battaglia, mi sembra che quotidianamente questa battaglia della sciattezza sia forse una battaglia veramente inutile, che non contribuisce oltretutto, a mio parere, anche al suo benessere in azienda, che è importante, perché dico che in azienda bisogna stare bene, e stando bene poi dai risultati, collabori bene, cresci, eccetera, da un lato. Dall'altro non contribuisce neanche certamente al benessere di questa capa. Grazie al nostro coach di questa domenica, grazie Roberto D'Incau, grazie a voi che ci avete seguito, e adesso relax. Il multitasking, lo sapete, è una fregatura.